una domanda più personale. Qui la gente ha paura che, siccome ci sono tanti nightclub sulla costa tra Nizza e Montenegro. Non voglio neanche sentire la domanda, non mi interessa. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Dico, sono soddisfatto perché dopo tre giorni non potevo pretendere di più. Abbiamo preso i primi due gol in maniera assolutamente evitabile, quindi quello che era importante oggi era riprendere un discorso interrotto, un discorso di partecipazione, di disponibilità e anche di gioco. Direi che alcuni momenti l'abbiamo fatto. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. Potevo far meglio e si poteva far meglio. Oggi sicuramente non era una partita facile, abbiamo provato a giocare, sicuramente lunedì bisognerà essere un pochino più attenti. Inizia un nuovo ciclo, stiamo preparando bene, ci stiamo allenando bene, stiamo mettendo a disposizione del mister, quindi tra quattro giorni andremo lì in Israele e cerchiamo di far bene. Insomma, abbiamo visto la prima Italia di Ventura e non è che sia piaciuta un granché, anche se ci sono mille alibi, mille spiegazioni, anche se inizio settembre, anche se era un amichevole. Noi tradizionalmente le amichevoli le soffriamo, anche se mancava Bonucci in difesa, anche se la Francia è comunque un avversario importante, forte, anche se tutto quello che volete. Insomma, però, da ieri stiamo facendo qualche ragionamento in più. Ma non tanto sull'immediato, ma magari proiettato a quello che accadrà in ottobre, quando con la Spagna ci giochiamo metà della qualificazione al Mondiale del 2018, oppure addirittura buttiamo l'occhio al 2 settembre 2017, quando con le stesse condizioni atletiche ci giocheremo in Spagna l'altra metà della qualificazione al Mondiale. Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Bene, un po' meno bene da ieri sera. Ci eravamo illusi di avere una nazionale, quella vista all'europeo. Ma sono amichevoli, no? Ma ancora con le amichevoli, ma dai, ma sono superate le amichevoli. Beh, però ieri Ventura aveva quella faccia un po' così alla fine, certo, dai, diciamo la certo, verità, anche lui si aspettava qualcosa di diverso forse. Sì, soprattutto si aspettava i pregi di questa squadra, quindi la compattezza, però ribadisco, le amichevoli, adesso è una provocazione, ma insomma, se... Io ho visto da parte soprattutto degli italiani fare delle figuracce in questi 30 anni, 35 anni che guardo partite di calcio più o meno quando sono bambino, quindi insomma non mi preoccuperei, ecco. Poi se in Israele perdiamo, se in Israele perdiamo possiamo anche già cominciare a pensare all'europeo del 2020, adesso, senza essere eccessivamente pessimisti, ma insomma, quel girone lì non è una passeggiata, comprese le regole. Saluto anche Fulvio Collovati. Ciao Fulvio. Ciao, buongiorno a voi. Ciao. Tu cosa sei? Tranquillo, sereno, tanto è solo questione che era un amichevole. No, io penso che Pierluigi abbia ragione. Un amichevole, però insomma, è anche giusto preoccuparsi. Insomma, è vero che il mese di settembre notoriamente non è mai stato un mese di grandi successi per la nostra nazionale, dato che insomma, sono tante cose, insomma, tanti giocatori non sono ancora in condizione, qualche assenza, il cambio d'allenatore, insomma tante cose, però insomma, un po' di preoccupazione, non tanto per la sconfitta, perché ci puoi perdere contro la Francia, ci può anche stare, più che altro secondo me per la prestazione. Prestazione che dove lascia un po' preoccupare, soprattutto dove noi avevamo dei punti forti, per esempio la fase difensiva, che era quella che ci se magari ci preoccupava un po' l'aspetto offensivo, gli attaccanti, così la fase difensiva aveva sempre dato delle certezze fino ad ora. Vedeva un po' quelle incertezze di ieri, insomma fa un po' riflettere. Anche se vi devo dire la verità, a me le incertezze della difesa di ieri hanno ricordato le incertezze della difesa a Bruxelles novembre di un anno fa, altra partita persa 3-1. E che cos'era? Un'altra? Era un'altra amichevole, sì, per carità. Era anche il momento serata, peggiore della Juve, quello. Una serata drammatica, perché sì, ricordiamo che è stata la serata dei primi attentati di Parigi, quindi sicuramente No, ti ripeto, io penso che veramente non faccia parte del nostro DNA, non, proprio per niente. Tu c'è il discorso che faceva Fulvio giustamente su settembre, che non è storicamente il nostro mese migliore. È vero che il girone è difficile, è vero che la formula è complessa, è vero che Ventura ovviamente ispira, e penso soprattutto al giro del fumo che c'è, no? Al tipo di vento che soffia sul suo essere commissario tecnico, non ispira la stessa fiducia e non ha lo stesso background che poteva avere Antonio Conte, però insomma è troppo presto secondo me per preoccuparsi. Leggo uno spaccato, intanto 800 24 00 24, tutti convocati fino alle 15 per sapere cosa ne pensate della nazionale di ieri sera, la prima di Ventura. Ma poi vi faremo anche sentire il primo Balotelli di Nizza, e ha detto ad esempio che non ha nostalgia dell'Italia e non tornerebbe qui praticamente neanche morto. I motivi dovremmo saperli, ma poi vi facciamo sentire tutto. Vi aspetto anche 349-238-6666, sms, whatsapp, primo spaccato di messaggi che sono arrivati. Parlate con enfasi della difesa della Juve come la migliore del mondo, si è visto ieri sera. Poi un altro messaggio: sconfitta dalla nazionale, la difesa della Juve è arrivata. O ancora: complimenti a Donnarumma per l'esordio a 17 anni, ma il gol sul proprio palo lo insegnano a 10 a non prenderlo. Patrizio: Ventura non ci piace, dire sono contento e prenderne 3 è roba da matti. Insomma, questo è il polso della gente. No, il rischio, il dubbio, giro questa considerazione sia a Fulvio che a Pierluigi, è che ci siamo abituati all'europeo a pensare di avere una nazionale forte e magari senza il furore agonistico di Conte tornano fuori invece i limiti tattici, tecnici soprattutto, che abbiamo di un gruppo non straordinario. Posso dire una cosa? Innanzitutto che non ho nessuna nostalgia di Balotelli, può pure rimanere a Nizza, sì. Perché se è vero che lui non ha nostalgia dell'Italia, penso che l'Italia dopo le ultime sue annate penso che non abbia nostalgia aspetta che allora a te che non hai nostalgia e a tutti quelli come te o magari a quelli che li rimpiangono vi faccio sentire invece il passaggio proprio sulla nazionale, che è quasi una chiamata a Ventura. Quando ho guardato la nazionale non guardavo la nazionale, ma tifavo la nazionale perché ci tenevo davvero facessero bene. Mi faceva un po' male, sono sincero, perché volevo essere in campo, ma non sto lì a dire se era più forte o no, perché se Conte ha portato quei giocatori vuol dire che quei giocatori in quel momento stavano meglio di me ed è giusto così, quindi non c'entra il fatto che io ci fosse stato o no, ecco. Mentre il Milan, tu mi dici colori uguali, lascio da parte Galliani che è una grandissima persona e lo ringrazio di tutto, la squadra e i tifosi, e ringrazio tutti loro, ma il resto lascio stare. Vabbè, non era questo il file audio, ve lo sintetizzo io. Lui ha detto a un certo punto: io alla nazionale oggi non ci penso, però è sempre nel mio cuore. Però è 2 anni che giocate senza di me, magari vi siete anche abituati. Sì. No, ma mi fai capire una cosa, scusa se tu l'hai forse già pensato. Allora, Galliani è una bravissima persona, sì. Poi non ce l'ho con la squadra, con chi ce l'aveva? Con i tifosi, chi c'è rimasto? Ma no, penso Mihajlovic, Mihajlovic e Berlusconi, non è che ne rimangono molti, Sì, ho capito, infatti, ma Berlusconi rimane, non credo. Solo l'allenatore. No, rimane l'allenatore. Cioè, Berlusconi e Galliani sono quasi la stessa emanazione, no? Boh, quindi sì, forse Mihajlovic, certo. Vabbè, comunque insomma fa bene Balotelli a pensare ancora alla nazionale? Ma, a sognarla? Rispondo io? Sì. Sì, fa bene perché ha 26 anni, perché ci ricordiamo di lui, quelle insomma, nel DNA, lui le giocate ce le ha, però ritengo che secondo me sia un discorso difficile per lui in questo momento della nazionale. Ci sono dei giocatori tipo Belotti così che possono rappresentare il futuro della nazionale, non so se lui possa rappresentare il futuro di questa nazionale, per cui la nazionale. Poi tra l'altro che ieri forse l'unica nota positiva è stata veramente la fase offensiva, è stato l'attacco, per cui alla fine l'Italia deve migliorare in altre parti, deve migliorare a centrocampo, deve recuperare i Verratti, Marchisio, tutta la gente del centrocampo. Poi Ha ragione Pierluigi, sono amichevoli, forse c'è un po' di disattenzione così, ma la difesa della Juve è ancora una garanzia, per cui quando il gioco si fa duro, quando cominciano le partite che conteranno, sicuramente la difesa non sbaglierà come sbagliate. Sì, l'abbiamo visto anche in occasione dell'Europeo. No, invece secondo me è più concreto il ragionamento di capire se l'anno prossimo si può far qualcosa per consegnare il 2 settembre a Ventura una nazionale in condizioni migliori dal punto di vista fisico. 2 settembre è il giorno di Spagna-Italia, lo ricordo. 2 settembre 2017. Se vogliamo aprire il tema adesso in anticipo, prima che facciano le date della prossima stagione, i calendari e tutto il resto, perché verrà d'attualità, Pier. Sì, scusa, no, mi sono perso un pezzettino. Qui il 2 settembre del 2017 c'è Spagna-Italia, sì. Se ci arriviamo camminando come ieri, ho l'impressione che ci siamo giocati, certo, in mezzo mondiale. Ma questo è un problema storico nostro, ma il 2 settembre 2017 c'è in palio tanto, eh. Ma assolutamente, io guarda, poi ti dico, è chiaro che arrivare dopo Conte, già prima di sapere come sarebbe andato l'Europeo, penso che Ventura fosse consapevole del fatto che arrivare dopo un totem, un allenatore straordinario come Antonio Conte, di grande carisma, di grande prestigio, dal buon curriculum, già pur essendo ancora un giovane, insomma, fosse un azzardo. Quindi figuriamoci dopo l'Europeo che ha fatto, non ci sono grandi discussioni. È una strada in salita perché Ventura sconta un po' lo stesso complesso che c'era nei confronti di Donadoni durante l'Europeo del 2008, quindi ha un tipo di pedigree che lo rende figo, ma non così figo come altri. A noi comunque Conte ci è piaciuto, perché ci dà la sicurezza e nei momenti difficili, e poi ha fatto un grande lavoro durante l'Europeo, questo è indiscutibile. È chiaro che passare da Conte a Ventura, nella testa di molte persone, è inutile nasconderselo, significa fare un passo indietro, che speriamo non sia tale. Detto questo, Ventura è un grande uomo di calcio, l'ha dimostrato in 20 anni di carriera, secondo me, di altissimo livello, e penso che possa trovare la sua strada. Il materiale umano non è eccezionale, sicuramente il girone è difficile, la formula è difficile, però io credo che la partita di ieri sia fuorviante, e penso che già dal match contro Israele vedremo un atteggiamento molto più pronto da parte dei nostri ragazzi. Sì, speriamo. Tu Fulvio sei fiducioso in vista di lunedì? Ma sì, sono fiducioso, perché difficile ripetere due prestazioni negative in nazionale. Sono l'avversario, l'ha detto anche Ventura, l'avversario non è la Francia. È vero che giochi in trasferta, devi anche, un avversario che devi anche temere, ci mancherebbe altro. Però insomma, non penso che con qualche accorgimento, penso che l'Italia non ripeterà la stessa prestazione negativa. Per cui da quel punto di vista lì sono fiducioso, non mi esalto per quello che ha detto Pierluigi, cioè venire dopo Conte non è un'impresa facile. Conte aveva determinate caratteristiche che aveva trasmesso la squadra, Ventura ne ha altre. Non lasciamoci fuorviare dal fatto che lo schema, il 3-5-2, è lo stesso, no? Il gioco è meno aggressivo, forse più riflessivo, è tutto. E questo non so se può essere positivo per la nostra nazionale, tutto qua. Noi abbiamo bisogno di grinta, di aggressività, di cattiveria. Detto questo, però, ripeto, parlare di cattiveria al 1° di settembre forse è ancora un po' prematuro. Sì, difficile, è difficile tenerla. Difficile tenerla. Ma tutti in condizione un mese dopo, è troppo presto. Ma il campionato poi è la sintesi di tutto questo, la fatica che fanno le grandi squadre, vedete, fa la Roma col Cagliari, che fa il Napoli col Pescara, che fa il Milan, l'Inter, ecco, forse la Juve non lo fa, però è quello che lascia un po' perplesso magari. Però non ti dimenticare che insomma ieri c'erano anche degli assenti, c'era anche Bonucci che non c'era, per cui una volta recuperati questi giocatori non mi preoccuperei. Grazie Fulvio. Grazie a voi, buongiorno a voi, ciao. Grazie Fulvio Colovati. 800 24 00 24, c'è anche il tema dei fischi a Lino Francese, poi vi faccio sentire anche il presidente della FIFA Infantino, che questa mattina ha sottolineato il gesto di Buffon, purtroppo ci facciamo sempre riconoscere, anche noi come altri. Ci sono Mario da Milano, Umberto da Pisa, c'è il traffico, torniamo subito. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Convocati. al momento degli inni, quando alcuni idioti hanno iniziato a fischiare, Gigi Buffon subito ha iniziato ad applaudire, la squadra l'ha seguito e poi tutto lo stadio ha applaudito l'inno francese, la Marsigliese. Questa è stata una scena bellissima, la vittoria della cultura e della civiltà sull'ignoranza. Sono scene che vorremmo vedere e vorrei veramente complimentarmi con Gigi, che è stato veramente grande, un esempio per tutti. Questo Pier Gianni Infantino questa mattina, l'audio sì, l'avete sentito, insomma la scena l'avete vista, no, ma con cosa, Gigi Buffon che ferma i fischi, sì. Proprio da imbecilli, cioè veramente io credo che siamo oltre, cioè siamo proprio all'ignoranza, ma nel senso tecnico proprio del termine, cioè di chi ignora, perché insomma in una partita, oltretutto, se non, niente, elimino il discorso, stavo dicendo, anzi lo dico così sia chiaro, avevo messo tra parentesi, oltretutto un'amichevole, cioè una partita che non ha nessuna componente, diciamo, di agone, di agonismo esasperato, senza nessuna ragione particolare di rivalità, se non quella sportiva che esiste ovviamente con un'altra grande nazionale come quella della Francia, contro una nazione che, lo sappiamo, oltretutto nell'ultimo anno e mezzo è stata toccata da fatti che ci hanno reso mille volte, chissà su quante bacheche Facebook di chi ieri ha fischiato lì, sì. Abbiamo visto Je suis Paris, Je suis Charlie e cose del genere, insomma mi sembra veramente una roba abominevole, ma che nasce dal fatto che uno magari pensa che semplicemente si fischi l'avversario a prescindere, cioè mi sembra veramente una roba da non riusciamo a togliere, cioè, non siamo gli unici, diciamo la verità, non siamo gli unici, ma non è che questa sia una consolazione. No, non siamo non gli unici, però, non è una consolazione. Però guarda che sentire i fischi senza nessun motivo, così al secondo dell'inno nazionale di un avversario durante un'amichevole, non saremo gli unici, ma siamo pochi, grazie a Dio, perché non mi sembra una scena tanto usuale. Quindi, sì, sì, sì. Incredibile. Mario. Buongiorno a tutti. Eccoci, e buongiorno, complimenti per la trasmissione. Mi sembra di non poter che condividere che si tratta di una manifestazione di assoluta e vergognosa ignoranza. Credo che chi ha questo genere di manifestazioni dovrebbe vergognarsi profondamente, perché non fanno onore. Tra l'altro in uno stadio che francamente, per fortuna invece, almeno per la presenza e il supporto, sembrava molto molto bello. Complimenti a Gigi Buffon. Al di là di questo, però, io volevo solamente dire, è settembre, tutto quello che vogliamo, ma vogliamo avere il diritto di aspettarci una mentalità vincente da chi veste la maglia azzurra, che indipendentemente da tutto, siccome è professionista e sa di dover scendere in campo anche in un'amichevole a difendere i colori dell'Italia, insomma, cerchi di offrire la giusta concentrazione e faccia onore alla maglia che porta. Questa è così, è una riflessione, perché ci sta anche che si perda una partita, ovviamente, ma tra grandi squadre come Italia e Francia non è mai amichevole. Ma io però, Mario, non credo che sia un problema di attenzione. Tra l'altro ieri qualche stimolo c'era, era pur sempre la prima con il nuovo commissario tecnico. È vero che oggi in tanti PR ricordano che quasi tutti i CD italiani non hanno cominciato bene e quasi tutti hanno cominciato con un amichevole. Anche però io. Ad esempio con Conte, in quel famoso Italia-Olanda, si era vista proprio la smania, la voglia di mettersi in vista. Io credo però che sia un problema di intensità, cioè che se si abbassa di un tono o due toni l'intensità, sicuro, in questa nazionale evidentemente poi escono i limiti. Sicuro, però adesso mi è venuto in mente nel Pantheon delle nostre peggiori amichevoli anche quella con la Germania, che tanto ci aveva fatto preoccupare a due mesi dall'Europeo, ed è stata una partita completamente diversa da quella che poi abbiamo giocato all'Europeo. Insomma, io sono un disco rotto e mi annoia semplicemente ripetere questa roba qui. Io credo che le amichevoli, gli italiani non le sappiano giocare, non gliene freghi niente, perché poi hai ragione tu, nel senso che se questa fosse una squadra comunque con dei valori tecnici eccezionali, con una forza di tipo diverso, probabilmente anche in amichevole se la caverebbe un po' meglio. Noi dobbiamo campare sulla forza dei nostri nervi, e da questo punto di vista sicuramente Conte era il massimo, ma queste sono le cose che dicevo due anni fa, o tre anni fa, quando Conte è stato è stato chiamato sulla panchina della nazionale, ti ricordi quell'estate lì, perché di fronte a una nazionale che non ha una forza così straripante dal punto di vista tecnico, a maggior ragione ti serve un grande allenatore sul piano della motivazione, dell'intensità, dell'impegno, un martello. Quindi Conte da questo punto di vista è quasi insostituibile, e il compito di Ventura è un compito complicato, ma da qui ad arrivare alla conclusione che ci sia una crisi tecnica, che Ventura non ci stia capendo niente, no, secondo me no, anche Lippi è assolutamente prematuro, certo. E anche Conte ha vissuto le sue brutte figure in amichevole. Umberto, poi intanto saluto Max Nerozzi, gli chiedo qualche istante, ciao Max, di pazienza. Umberto da Pisa. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Innanzitutto, beh, concordo con quello che avete detto, insomma, sia su Fisti che sull'altro. Volevo parlare un po' della formazione, dicendo che secondo me quando uno apre un ciclo di una nazionale comunque fa arrivare facce nuove, inizia con i giovani, comunque li fa, insomma, sentire la della nazionale, di Poverciano e tutto. Secondo me iniziare con Pellè, che è andato in Cina, che andrà in Cina, o comunque è andato in Cina, e quindi penso che nei milioni mondiali verrà preso in considerazione, almeno spero. Con Eder, che con l'Inter non avrà spazio, e quindi anche lui, insomma, prospettiva futura fra due anni, non si sa dove sarà. Comunque, secondo me, bisognava iniziare da Berardi, Insigne, Jorginho, per fare gente qui, insomma, per iniziare, insomma, un progetto nazionale che punta al mondiale tra due anni. Sì, credo però, Umberto, vorrei sapere cosa ne pensa Max Nerozzi, che il tema sia stato sviscerato in settimana, parlando poi soprattutto di Berardi, del modulo, dell'integralismo, diciamo del 3-5-2, poi in realtà il succo di Ventura, ed è anche condivisibile, io dalla prossima partita, da lunedì, da Israele-Italia, sono obbligato a fare punti perché questo girone non perdona, e quindi non ho tempo per iniziare come fa tradizionalmente un CT nuovo che apre un ciclo, cioè portando 10 nuovi giocatori, provandoli e dando loro il tempo di crescere in nazionale. Max? Sì, hai ragione. Ventura ieri sera ha provato a partire dalle certezze, e il timore è che le certezze non ci siano più o non ci siano con lui. Pier parlava prima del carattere di Conte. Io penso che ieri sera, al di là del fatto che fosse amichevole, ci sono due ordini di problemi. Uno è caratteriale sicuramente. A me ieri sera Ventura, noi abbiamo avuto 5 anni a Torino, mi sembrava la sua controfigura. Cioè non ha fatto il Ventura. C'è anche chi lo scrive, col suo ciondolare, facce, sbuffi, eccetera, non è piaciuto. Non ha fatto il Ventura perché, secondo me, dovrebbe essere se stesso. E la seconda cosa invece è anche tecnica, ma non tecnica dei giocatori, tattica. Ventura ieri sera si è visto, non ha mai pressato, ma non è una novità, il Toro non ha mai pressato. È un allenatore che preferisce giocare a palla più in orizzontale, meno in verticale. E non so se col livello tecnico nostro ce lo possiamo permettere. Secondo me no. Però questa è una mia valutazione. Ci aiuti a fare un po' il punto del giorno dopo, ad esempio sulle condizioni di chi ieri è uscito un po' acciaccato? Sappiamo che Bonucci non ci sarà lunedì in Israele, e insomma da lunedì si fa sul serio. Non sono il massimo le notizie, nel senso che, appunto, dicevi tu, Bonucci non verrà qua. De Rossi è uscito agli spogliatoi molto male ieri sera, insomma zoppicava, il polpaccio sinistro non è messo bene, quello che tra altre cose l'ha fatto soffrire tante volte. Basaglia ha preso una botta, e temo che con Verratti in non perfette condizioni fisiche, e non so se l'Italia si potrà permettere ancora di affidare la regia difensiva ad Astori, che probabilmente non è quel tipo di giocatore lì e non ha gli automatismi con Chiellini e Barzagli. Chiudo di nuovo parlando della motivazione. Chiellini lo conosciamo tutti, è un giocatore straordinario che sta facendo una carriera grande, pur non avendo grande talento, però è un giocatore che ha bisogno di essere sempre in tensione. Io non voglio fare del suo esempio un paradigma, però ieri sera Chiellini ha giocato molto male. Non vorrei che fosse proprio per CT, per la nuova squadra, per l'ambiente che c'è. Vediamo se saremo smentiti in Israele. Secondo te Pier ha pagato un po' l'emozione Ventura? Sì, ma che si è un po' snaturato. Mi interessa molto quello che dice Max, perché chiaramente lui era presente sul luogo del delitto ieri, e perché certamente Ventura è un allenatore che ha certe caratteristiche, e la caratteristica nel suo Torino è stata certamente ha sempre manifestato un grande polso, una grande autorevolezza. Anche lui in qualche modo è stato un martello, in maniera magari diversa da Conte, ma comunque quella caratteristica al Torino ce l'aveva. Quindi l'idea che ieri abbia un po' avvertito l'emozione, che questa ancora forse non la senta con la sua squadra, può essere un problema. Attenzione, io non è che siccome Ventura è, tra virgolette, mio amico, una persona che stimo, per forza debba essere il CT giusto. Io dico che è complicato uscire dall'esperienza Conte, e ci rendiamo conto oggi probabilmente di quanto Conte sia stata un'opportunità 2 anni e mezzo fa, quando venne fatta quella scelta, e di come una nazionale, comunque, se ha un allenatore di un certo tipo di prestigio, in ogni caso è un valore, cioè non basta che sia un semplice selezionatore, come si diceva una volta. Detto questo, Ventura non è un semplice selezionatore, è un signor allenatore, deve trovare presto il feeling con la sua squadra. Certamente il fatto che sia la sua prima grande, perché di questo stiamo parlando, no? La sua prima, cioè, sicuramente l'esperienza più adrenalinica e più complicata da mille punti di vista, anche da quello mediatico, sono stati per giorni a parlare di Berardi e della sua risposta in quella conferenza stampa, è un'ulteriore complessità. Quindi non dico che sia semplice, però dico anche che se vogliamo un po' bene a questa squadra, considerato il fatto che Ventura comunque non è uno sprovveduto, bisognerebbe, secondo me, dare un'apertura di credito. Bisogna avere un po' di pazienza. Vi rubo ancora un minuto, poi c'è la borsa. Vi faccio sentire Infantino oggi sull'altro aspetto storico, e questo in senso assoluto, della partita di ieri sera, ovvero la prima sperimentazione dell'assistenza video all'arbitro. Ovviamente era tutto offline, da casa non abbiamo visto e non abbiamo notato nulla, però mi piace sapere poi da voi anche cosa ne pensate. Infantino. È stata un'esperienza, devo dire, molto positiva. È stata la prima esperienza, un'esperienza positiva. Noi amiamo il calcio e dobbiamo proteggere il calcio. E dobbiamo aiutare gli arbitri senza snaturare il calcio. Siamo nel 2016, non possiamo più permettere che tutto il mondo vede una scena importante e l'unico che non può vederla, e anzi gli è proibito di vederla, è l'arbitro. Max, hai avuto l'impressione di essere stato presente a qualcosa di storico o è uno dei mille tentativi che sono stati fatti? No, storico no, mi sembra che tra le cose ieri sera c'è stata molta confusione, poi abbiamo parlato anche degli spogliatoi, la FIFA deve al più presto codificare bene quando intervenire, perché sennò veramente si rischia il bar sport in area di rigore. Erano partiti dicendo che sono 4 casi, ieri Infantino stesso ha detto che anche il caso della mano del francese in realtà non dovrebbe essere da VAR quella, perché altrimenti andiamo a discutere qualsiasi episodio in area di rigore. È un rischio, secondo me, cioè bisogna ben definire i casi e lasciare pochissima discrezionalità, perché sennò si farà veramente la moviola, ma col successivo dibattito a bordo campo. Magari troveranno il modo per venderne i diritti anche. sai che pacchia. Grazie Max. A voi, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Grazie Max Nerozzi, Pierluigi Pardo, stai lì, c'è la borsa, torniamo 800 24 00 24. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo. Oh, carissimo Pierluigi Pardo, sai chi sta ricominciando? Bartelli? No, il tuo amico Zamparini. Il nostro amico Zamparini. Anche Balotelli sta ricominciando. Sì, ma adesso ne parliamo. Il nostro amico Zamparini, dopo questo ruolino d'onore della passata stagione, Iachini, Ballardini, Viviani, Bosi, Schelotto, Tedesco, Bosi, Iachini, Novellino, Ballardini, sta sostanzialmente cambiando allenatore al Palermo. Cioè Ballardini sta per dimettersi, al suo posto potrebbe arrivare De Zerbi, il tutto dopo le prime 2 giornate del campionato. Un campionato in cui Zamparini aveva detto che aveva capito la lezione. Sì, ma tra l'altro dopo una buona prestazione, perché insomma io faccio ammenda, no? Tu mai giustamente... Sì, certo. Che l'Inter vincesse facile col Palermo non è avvenuto, Palermo ha fatto una buona partita. Ha una squadra secondo me molto fragile, cioè in questo momento è tra il 18esimo e il 20esimo posto, mm-hmm, come valori tecnici nella Serie A, che significa fondamentalmente retrocesso. Sì, poi può, se fa una buona stagione si salva, però in questo momento è, diciamo, è a forte rischio di retrocessione. Poi a gennaio possono succedere altre cose, per carità, e poi appunto c'è il campo che spesso contraddice le gerarchie di partenza, ma in questo momento credo che siamo tutti abbastanza convinti che sia a rischio retrocessione. E quindi voglio dire, non è che Ballardini abbia questo materiale umano clamoroso. In più Ballardini non è che lui non lo conosce, lui ha vissuto vari momenti della sua vita con Ballardini. Lo scorso anno è andato, poi è arrivato, poi se n'è andato, poi è ritornato. Quindi francamente di che stiamo parlando? Cioè, se non c'era fiducia nei suoi confronti non doveva nemmeno cominciare la stagione. In queste due partite secondo me non ha fatto niente di sbagliato che possa in qualche modo far pensare a No, ma difatti pare sia Ballardini che insomma non è contento del mercato, voleva fare il 3-4-3 e questo sarebbe diverso, Sarebbe diverso, posto che poi in realtà all'origine c'è sempre poi questione di rapporto. Se tu hai un pregresso così con gli allenatori, sei tornato da Ballardini, ti ha salvato, gli hai rinnovato e allungato il contratto, hai deciso e detto che hai fatto tanti errori, lui è l'uomo della tua vita, e insomma poi mettilo anche in condizione di lavorare sto benedetto allenatore. La quantità di stipendi pagati, che tu hai detto giustamente, gli ha pure allungato il contratto, cioè... è un benemerito dell'asso allenatore, esatto. Assolutamente. Davide da Monza, Davide. Sì, buongiorno a te. Grazie per la convocazione, velocissimo. Quando ho visto ieri sera ancora per l'ennesima volta Montolivo addirittura in nazionale, sì, cioè io sono rimasto basito. Vorrei sapere il vostro parere su questo ex calciatore ormai da tempo. Grazie, ascolto Pier, per radio. C'è anche chi scrive 349-238-6666 che Montolivo corre meno di te. Grazie della fiducia. Questo no, non io, credo. Io dico che su certi giocatori poi si creano delle etichette. Montolivo non è il mio calciatore preferito, non è Berratti, non è il centrocampista di talento, non è Pirlo ovviamente, e è Montolivo, è un discreto giocatore, mi ricorda anche se in maniera diversa la campagna anti Thiago Motta che c'è stata all'Europeo. Sembrava che Thiago Motta fosse una vergogna del calcio italiano o l'uomo più lento del mondo. Thiago Motta è un giocatore che ha fatto una carriera importante, di grandi qualità tecniche, che ha giocato in club importanti e che ha certamente delle grandi qualità, per esempio il palleggio, e l'ha anche dimostrato in quegli spezzoni in cui si è visto all'Europeo. Montolivo è un altro giocatore che secondo me appunto non sarebbe assurdo esaltare, ma che secondo me è un po' impietoso, è un po' ingiusto. Cioè mi sembrano delle etichette che si creano, per cui Thiago Motta è lento, Montolivo è scarso, vabbè, ma secondo me Montolivo non è scarso. Certo, se a Montolivo si chiede di diventare un fuoriclasse e di prendere per mano il centrocampo del Milan o il centrocampo della nazionale, magari fa un po' di fatica. Ah, sicuro. Ma non è il giocatore, non è il problema. Innanzitutto non è il problema lui, se viene convocato è perché neanche il problema del Milan, credo, poi magari assolutamente i tifosi discutono e forse hanno ragione, un rinnovo triennale a 3 milioni di euro netti a stagione, ma queste sono questioni di gestione di un club e sono assolutamente opinabili. Poi non è che nel Milan ci sia molto meglio di Montolivo. Capito, non è che dici gioca Montolivo, però sai, c'è Gerrard, ci sono Gerrard e Lampard degli anni d'oro che stanno a fare la panchina perché gioca Montolivo. Non è così. Purtroppo non è così, non è così per il Milan, non è così per la nazionale. Aspetta Pier, che saluto Paolo Condò. Ciao Paolo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti, ciao Pier. Ciao. Allora, a grande richiesta, brevissimo, qualcosa abbiamo già sentito prima, brevissimo estratto delle parole oggi, le prime parole di Balotelli al Nizza, ad esempio sulla nostalgia o meno dell'Italia. Hai avuto nostalgia, voglia di tornare in Italia, poi prima di ovviamente fare la scelta che ora vediamo? No, per niente. Non, in questo momento non tornerei mai in Italia. Perché? Beh, lo sai più te che me. Poi ancora sulla sua carriera, da 16 anni a oggi. Penso che la mia carriera calcistica sia molto diversa dalla carriera mia, che è stata scritta da quando ho 16 anni sui giornali, quindi il rischio secondo me non è un rischio. Io gli ultimi 2 anni ho avuto problemi soprattutto fisici dopo l'operazione, quindi non avevo trovato la continuità nelle partite, quindi a me serve solo quello, non è un rischio. E per chiudere il pezzo sulla nazionale, che resta sempre lì sullo sfondo, un sogno. Tutti sanno quanto io ci tengo alla nazionale, penso che ultimamente non me l'ero meritata, quindi ora è difficile pensare alla nazionale in questo momento. Io devo pensare al Nizza, devo pensare a far bene a Nizza, a giocare a Nizza, poi se la nazionale verrà, bene. Se non verrà, ormai sono 2 anni che giocate senza di me, quindi siete abituati. Carissimo Paolo, questo è un breve riassunto. Ha detto anche che questa è una scelta sportiva, non vuole sentire parlare di Knight e tutte queste cose qui. Io condivido la tua opinione, cioè che forse sarebbe stata più bella una scelta di cuore, un investimento sulla sua carriera, magari Palermo, magari insomma, non lo so. No, ma sai, insomma, tutto ciò anch'io avrei preferito vederlo nel campionato italiano. Anche ti dico per tenerlo sotto controllo, però va bene anche Nizza, va bene anche Nizza, nel senso che è un club di una taglia adatta a quello che è il momento attuale di Mario Balotelli, cioè un giocatore che si deve ricostruire da zero praticamente, perché le ultime 2 stagioni sono state nefaste, per problemi fisici innanzitutto, cioè lui ha ragione quando dice: non ho potuto giocare con continuità, la pubalgia è una brutta bestia, però comunque gira e rigira, sono 2 anni che ha fatto, in 2 anni ha fatto 2 gol in campionato, uno col Liverpool, uno col Milan, e questo non è possibile mantenere alte le proprie ambizioni a questo ritmo. Preferisco vederlo in un club come il Nizza, dove certamente giocherà, e certamente, visto che l'anno scorso sono stati bravi a rivitalizzare Ben Arfa, che con tematiche diverse, ma era un Balotelli francese, e ora è andato al Paris Saint-Germain, mi voglio sperare, magari voglio illudermi. Io, come ho sempre detto, provo una solidarietà umana, un'empatia umana con Mario Balotelli. A me, cioè, non lo conosco personalmente, ma c'ho dell'affetto per lui. E quindi, sì, Nizza secondo me potrebbe anche essere la società, il club nel quale si rilancia. Chiede un amico: ha detto che non vuole sentir parlare di Knight o che non andrà più al Knight? No, ha proprio troncato a metà la domanda, ha detto: io questa cosa qui non la voglio più nemmeno sentire. Ha fatto benissimo, anche perché la parola Knight non la conosce, perché è una parola da anziani, quindi sì. Lui Knight non scherzare, invece mi è sembrato finalmente reattivo sul tema. Cos'è Knight? Cosa mi stai chiedendo? Cos'è Knight? Sapete cosa ha detto che invece a me ha colpito molto? A un certo punto ha detto: per essere felice mi serve il calcio, oltre a mia figlia, e quello che mi è mancato è stato il calcio, che da uno che non sorride mai, insomma. Ma posso dire una cosa? Sì. Io credo che Balotelli sia uno che ci fregherà sempre, anche se adesso lo siamo un po' dimenticato. Insomma, innanzitutto le sue risposte sono risposte di grande buonsenso, al di là lì di quel momento un po' piccato sul fatto che non gli è mancata l'Italia, ma in generale è vero che lui nell'ultimo periodo ha sofferto soprattutto dal punto di vista fisico. Lo scorso anno non aveva cominciato malissimo col Milan, aveva cominciato piuttosto bene. C'era stata forse anche troppa enfasi nel dire che si comportava bene, come se per forza si dovesse comportare male nella vita, poi ha avuto problemi fisici e la stagione è volata via. Detto questo, secondo me lui è uno di quei profili che ci pregherà sempre, perché poi la giocata ce l'avrà sempre nei periodi in cui tornerà in forma, e perché poi non è che sia un cattivo ragazzo, per cui poi no, uno quando anch'io provo dell'affetto, sono d'accordo, anch'io provo dell'affetto, insomma è un Balotelli felice, realizzato e al centro del progetto tecnico del calcio italiano sarebbe una bellissima notizia, insomma, anche se poi una volta lui si è arrabbiato quando qualcuno gli ha detto no, che è un patrimonio, una risorsa del calcio italiano. E Nizza è il posto giusto per cominciare, sarebbe stato più divertente in Italia, sarebbe stato molto divertente a Palermo, per rimanere al tema di prima, anche perché c'è quel discorso, no, della città dove è nato, mi sarebbe piaciuto molto. Però insomma Nizza è vicina, le partite ci stanno, si vedono, il campionato francese si può guardare, a un'ora di macchina, un'ora e mezza di macchina da Genova, non è fuori dai radar, per cui anche quel sogno nazionale, che in questo momento è ovviamente lontano, e lui fa benissimo a parlare d'altro e a non pensarci, non è proprio impossibile se dovesse tornare. Abbiamo il traffico, rubo ancora un minuto a Paolo Condò, perché poi mi piace sapere se secondo lui Ventura, tra le mille cose che deve fare per mettere a posto, per aggiustare la sua nazionale, c'è anche dare un'occhiata alle partite di Balotelli. Traffico, torniamo subito. Secondo me non capisci di calcio. Tutti convocati. Convocati. Allora, parliamo di Balotelli con Paolo Condò. Che fa Ventura? Deve cominciarsi a guardare le partite del Nizza o per il momento non è neanche il caso di pensare a un ritorno di Balotelli? No, naturalmente deve tenere sotto controllo le partite del Nizza, ci mancherebbe. Non è il momento di richiamare Balotelli questo. Cioè, Balotelli lo potrai richiamare quando il Nizza avrà fatto 10 gol nelle prime 10 partite, nelle prime 15 partite, ma soprattutto avrà mostrato un atteggiamento, l'atteggiamento che ci vuole per giocare in nazionale e per rilanciarsi. Io nel discorso che ho fatto più di una volta su Balotelli, io credo che Balotelli, senza assolutamente esaltare il pauperismo, perché non c'è nulla di più lontano da me, però io trovo che Balotelli abbia invertito come nessun altro, grazie naturalmente alle arti del suo procuratore, alle ben note arti del suo procuratore, la normale grammatica del lavoro, che ovviamente si applica anche a chi di lavoro fa il calciatore, e cioè andare a guadagnare tanti soldi dopo aver dimostrato di meritare di guadagnare tanti soldi per un tempo sufficientemente lungo. Ecco, e io credo che gli sia mancata dentro a una serie di contorsioni psicologiche abbastanza evidenti e anche, come dire, comprensibili vista la sua storia. Ecco, però lui è certamente contorto nella sua psicologia. Ecco, dentro a questo gli sia immediatamente mancata quello che è un grande stimolo per l'uomo, ma qualsiasi lavoro faccia, e cioè quello di guadagnare di più, di dimostrarsi bravo in modo da guadagnare più soldi. E questo per me è stata una fregatura. È partito al contrario. È partito al contrario, non so cosa ne pensi Pier, ma per me lui questa è una cosa che ha pesato su lui. Pier. Sì, in certi momenti il fallimento, cosa che non è così inusuale, è una delle forme di cortocircuito che ci possono essere nel mercato di oggi. In certi momenti il suo fallimento l'ha reso più attraente e più appetibile sul mercato, e poi ha sempre trovato delle società. Il Nizza chiaramente una diminuzione rispetto al passato, ma fino al Liverpool e poi ancora al Milan ha trovato sempre delle società disposte nel continuare a scommettere su di lui. Il Nizza è una diminuzione, Nizza è un passaggio sicuramente, è un passo indietro, però magari proprio questo passo indietro potrebbe essere, e glielo auguriamo, l'occasione per rilanciarsi. Sicuramente stiamo parlando di un giocatore che ha dimostrato meno di quello che ha guadagnato, questo non c'è da discutere. Il paradosso è che ha vinto e forse dimostrato di più nel momento in cui era un ragazzo, un ragazzino, ed era all'inizio della sua carriera, che tra l'altro è anche a parte della sua carriera che lui spesso omette, dimentica, e adesso senza entrare in logiche da tifoso Milan, tifoso Inter, però è anche la parte di carriera, e questo è un paradosso che lui forse ricorda con minor piacere, non lo so. Saluto Paolo Condò, grazie Paolo, ciao, alla ciao, prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Fabio Davarese, Fabio. Sì, buongiorno a tutti, eccoci. Grazie per avermi convocato. Volevo fare l'ennesimo intervento sulla partita di ieri, sì, nazionale, che purtroppo non mi ha soddisfatto, parlo come spettatore, ovviamente non sono un tecnico del calcio così addentrato, però volevo appunto sottolineare il fatto che, secondo il mio modestissimo punto di vista, purtroppo essere allenatori di una grossa squadra con un grossissimo potenziale di calciatori come quella, come la duella nazionale, a mio avviso bisogna avere un'arte, e l'arte qual è? Quella di mettere in risalto al meglio tutte le qualità e i limiti, anche tenendo conto dei limiti, dei calciatori che hai a disposizione nella tua rosa, sia con un discorso proprio di schemi adatti a quel tipo di potenziale e al tipo di gioco che dovranno poi svolgere per avere un risultato ottimale. A mio avviso Conte in questa cosa ci riusciva molto, e lo ha dimostrato in passato con la Juventus, con la stessa nazionale, e lo dimostrerà credo anche in futuro. Purtroppo non credo che questa arte sia in possesso di tutti gli allenatori. Sì, però su Ventura aspettiamo, Fabio, cioè su Ventura in nazionale aspettiamo, cioè prima di dire che non ha l'arte di riuscire a far funzionare i giocatori che ha e metterli insieme allo schema che ha in testa. No, ma sicuramente dovrà chiaramente inserirsi al meglio con questa nazionale e capire bene che tipo di schemi utilizzare al meta per avere un rendimento ottimale anche da parte di questo grosso potenziale che ha a disposizione come calciatori, sono professionisti molto molto molto validi. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare, secondo me, insomma, chi è un po' perplesso per aver visto ieri, Pier ha ragione, però insomma siamo davvero nemmeno partiti. Intanto ti saluto con la notizia che è diventata ufficiale proprio pochi istanti fa, e cioè, carissimo Pier, che De Rossi lascia il ritiro della nazionale, non sarà disponibile lunedì in Israele, perché, ma ce l'aveva già anticipato Max Nerozzi, l'infortunio di ieri sera era un infortunio serio che non gli consentiva di essere a disposizione per la prima partita del girone mondiale. Ciao Pier, a domani. Domenica, che siamo in onda dalle 17 alle 19. Parliamo un po' di motori, perché è un weekend intenso. Allora, in pista a Monza e a Silverstone, Formula 1 e MotoGP, a Monza prove libere del venerdì, in mattinata Rosberg ed Hamilton davanti a tutti, poi Raikkonen e Vettel staccati di oltre un secondo, a Silverstone nelle prove della mattinata Vignales, Lorenzo e Marquez, quarto Valentino Rossi. Marquez si è anche steso per terra. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Siamo credo all'ultima chiamata generale, ultima chiamata della Ferrari che ha puntato su Monza per cercare una vittoria che riscatti la stagione, ultima puntata forse per chi sogna di togliere il mondiale a Marquez. Sì, diciamo che l'impresa di Valentino è molto ma molto complicata, forse pur nella sua complessità ha qualche chance in più la Ferrari di salvare la stagione vincendo a Monza, perché domani andrà in pista al motorone. Gli ultimi tre gettoni dell'anno verranno probabilmente giocati, quindi la Ferrari si presenterà con qualcosa in più dal punto di vista motoristico che potrebbe permetterle di tentare il colpo a Monza, anche se devo dire che anche visto come stanno andando le Mercedes delle prove di oggi, mi sembra che comunque dovrebbero fare qualcosa loro per perdere la gara più che aspettarsi un miracolo Ferrari. Però una Ferrari che si dovesse qualificare vicino alle Mercedes poi potrebbe tentare il colpo in partenza, come è successo qualche volta l'anno scorso, e poi a Monza non è una pista dove negli ultimi anni i sorpassi sono stati all'ordine del giorno. Sì, anche se dobbiamo considerare, insomma, che vedremo in questo weekend, e stiamo già cominciando a vederlo, un Hamilton liberato dal peso degli handicap, delle penalizzazioni, ha scontato tutto a Spa. Ha scontato, secondo me, anche meno di quello che rischiava di scontare a livello di punti nella classifica mondiale. Da qui parte la volata, difficile che regalino qualcosa. Assolutamente, gli è andata benissimo Hamilton a Spa, perché partendo così in fondo poteva veramente rischiare il controsorpasso da parte di Rosberg, invece è arrivato a Monza ancora con un bel vantaggio di 9 punti e è lì con la sua vittoria numero 50, quindi io credo che Hamilton farà di tutto per vincere su una pista dove ha già vinto 3 volte, una pista e comunque un terreno dove gli piacerebbe, credo, portare a casa una vittoria significativa, la numero 50 della carriera, quindi non sarà per niente facile. Però lo stesso Rosberg in Italia gioca un po' in casa, lui ha molti amici italiani, parla correntemente la nostra lingua, da ragazzo ha frequentato spesso Milano, quindi anche lui gioca un po' in casa. Certo, i tifosi, da quello che abbiamo visto, l'invasione pacifica e gratuita di ieri, quando potevano entrare a Monza ad avere un contatto minimo con i piloti, è un'invasione rossa, come lo è sempre stata a Monza, dove tra l'altro ci sarà il podio più bello del mondiale, perché io credo che per un pilota l'emozione di andare sul podio di Monza con sotto un mare di tifosi sia unica in tutto il panorama delle 21 gare del campionato del mondo. Sì, e per fortuna dovremmo essere alla vigilia della chiusura del tormentone sul futuro di Monza. Un anno fa, sì, di questi tempi eravamo nel pieno del dramma, adesso ci siamo. Stanno per firmare, l'accordo è stato lungamente inseguito, ma finalmente è stato raggiunto. Ci saranno altri 3 anni come minimo di Gran Premio d'Italia a Monza. Io credo che sia un bene imprescindibile per Monza, perché senza Formula 1 l'autodromo rischierebbe di morire, ma sia un bene soprattutto per la Formula 1, perché correre a Monza, come è stato correre a Spa, credo che faccia bene alla popolarità di uno sport che sta soffrendo molto in quest'ultimo periodo e che ha bisogno di far vedere questi bagni di folla, questa gente che si affeziona ancora ai suoi eroi e alle sue macchine, invece di andare a correre nel deserto dove neppure i cammelli si appassionano alla Formula 1. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domenica col tradizionale appuntamento dalle 17 alle 19. Ciao. Fatto, dai, tu spegni il bianco, il rosso o il verde, dai, uno dei tre, spegni.